Bata party, mega MMA UTM, ehi, ce l'ho nel sangue questo suono, sono un poco di buono, non mi tappi la bocca, non mi tieni zitto e buono, mettiti buono, a me non mi superi, è che come Mount a tempo ho iniziato a dare i numeri, o numeri, da capogiro, capito che è il capo in giro, chi è a capo del nuovo giro, pompa e sound, underground hero, il nostro spacca, il tuo lo prendono in giro, detto fra le righe, noi frate stiamo oltre, siamo a monte, sì, come l'uomo del monte, la tecnica sfonda porte, il mio crew spinge forte, se sei una merda non puoi accollarmi le tue colpe, il gatto e la volpe preparano il golpe, ombre finché sei in tempo raduna le forze, porto le rime più rozze, dal bunker alle serate col bulldozer. Ascolta patta parte, poi parti col patta, finisce pari e patta, si spacca e si ricompatta. Doppia H, doppia M, doppia trama, tu ami la tua strada e la tua strada ti ama. Lama la strada, la lava e la ripulisce, ma non lava via le bisce che sbavano sulle strisce. E si intuisce, io giro a piedi con il bus, ma non mi fai le scarpe, te le tiro con mia bush. Due piedi in una sola, di passi ne fanno zero, e non mi basta un mezzo pubblico, mi serve tutto intero. Un po' più leggero, ma c'ero nel 98, udite udite, adesso dinamite, mo sentite oh. Mi cerchi come Giotto, ma il mio cerchio si distingue, sono l'anello mancante della catena che mi stringe, immersa testa in giù in un cassone mezzo pieno, tu chiamami un dinito perché sul palco mi scateno.